Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se dovessi dire qual è la cosa dell'Italia che più, ora però rispondo soltanto ai ragazzi, di cui più avete sentito parlare, un quadro, anche la piadina volendo, però vai, dimmi tu. La pizza, bene, infatti, un quadro, un museo, la pizza, bene. Poi, ah, è così ragazzi, la pizza è un'opera d'arte, quindi non fate ironia. Effettivamente, per carità, lo è un'opera d'arte. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, riprendiamo il nostro appuntamento puntuale qui alle 21 tutte le sere con la pizza, che è un'opera d'arte. Renzi lo ha detto in una scuola italiana a Cristoforo Colombo a Buenos Aires, si trova in Argentina, sapete, è molto, molto dinamico, è molto iperattivo, e ha anche difeso durante quell'incontro la Nutella, insomma, diciamo che era particolarmente in vena gastronomica oggi in Argentina. Ma parleremo di altre cose, perché mentre Renzi è appunto lì in Argentina, continua a infuocarsi in Italia la polemica, il dibattito sulle unioni civili. Adesso si parla di un maxi canguro per superare i vari emendamenti, ancora non c'è diciamo così un consenso, una concordanza, una convergenza all'interno del suo stesso partito, il Partito Democratico. E poi un'altra cosa che continua ad infiammare il dibattito è quello sulle pensioni di reversibilità. Ne avete sentito parlare nelle ultime ore, negli ultimi giorni, del rischio che siano tagliate o che pure siano considerate delle, come si può dire, diciamo, una dimensione assistenziale, non previdenziale, delle erogazioni assistenziali, e quindi legate poi al reddito del coniuge o del partner, insomma, che rimane. Ne parleremo di questo, cercheremo di chiarirci un po' le idee, di capire se effettivamente c'è questo rischio, c'è questo decreto, possibile decreto legge del governo, oppure, come dice Poletti, è tutta fantasia, una cosa inventata, infondata. E poi ci occuperemo, fra le molte cose, anche di questo cervello di coniglio scongelato, vedete che si parla qui di alimentazione a proposito di pizza e di creme da cioccolato da spalmare. No, è un esperimento molto importante che è stato fatto in California, che potrebbe aprire le speranze alla famosa ibernazione. Finora solo letteratura fantascientifica e film di fantascienza ne avevano parlato, invece potrebbe essere realtà. Voi comunque non perdete un solo istante qui di Effetto Notte, naturalmente sino alle 22. Se volete fare i vostri commenti, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure i messaggi al 349 238 6666. A proposito appunto di pensione di reversibilità, vedo già diversi vostri commenti sulla pagina Facebook, potete già cominciare a fare le vostre osservazioni prima di che ce ne occupiamo direttamente qui Effetto Notte. Ma adesso, come sempre, sintesi della giornata. La guerra in Siria, l'ONU annuncia che sono 5 gli ospedali bombardati e 2 le scuole, i civili morti sono almeno una cinquantina, la Turchia accusa la Russia, Mosca replica è solo propaganda. Il Papa in Messico, Francesco chiede perdono agli indios messicani, la messa nel cuore del Chiapas. Draghi all'Europarlamento, dice il Presidente, rassicura nuovi interventi a marzo, ma per la crescita serve l'intervento degli Stati. L'omicidio di Giulio Regeni, il Cairo respinge le accuse, insiste, il ricercatore non fu preso dai servizi e l'ambasciatore egiziano ai media dice le speculazioni compromettono la soluzione. Unioni civili, non si placano le tensioni nel PD a poche ore dalla ripresa dei lavori in Senato. Movimento 5 Stelle, il nome di Grillo da oggi fuori dal simbolo, modificato il logo del movimento, lanciata la carica dei 200 candidati per il Campidoglio. Carceri, 2 romeni fuggono da Rebibbia, in corso le ricerche in tutta Italia. Scienza, cervello di coniglio scongelato senza danni, il successo dell'esperimento apre al sogno dell'ibernazione. Partiamo quindi dalla Siria, dove una serie di missili ha colpito, secondo quanto annunciato dall'ONU, 5 ospedali e 2 scuole, provocando almeno una cinquantina di morti tra i civili. La Turchia accusa Mosca di questi raid, Mosca risponde che è solo propaganda, e dalla Siria arrivano accuse agli Stati Uniti, dicono sono stati jet americani. Torneremo su questo argomento tra poco. Intanto parliamo del viaggio del Papa in Messico. Perdón, perdón, hermanos. El mundo de hoy, despojado por la cultura. E il Papa Francesco, che dice che è stato accolto con entusiasmo in Chiapas, in Messico, una delle tappe più attese del viaggio a San Cristobal. La messa l'ha celebrata prima di tutto rispetto ai popoli indigeni, usando le loro lingue. Subito ha chiesto, come avete sentito, perdono per le sistematiche incomprensioni ed esclusioni subite per le spoliazioni delle loro terre, degli indios. Che tristezza, ha detto, quanto farebbe bene a tutti noi fare un esame di coscienza e imparare a dire perdono, ha affermato, rivolgendosi alla comunità indigena a San Cristobal. Il mondo di oggi, spogliato della cultura dello scarto, ha bisogno di voi, ha aggiunto il Papa. E siamo all'omicidio di Giulio Regeni in Egitto. L'indagine sulla morte del ricercatore friulano va avanti tra il Cairo e Roma e diventa sempre più intricato il caso, forse di spionaggio. Da una parte le versioni ufficiali, dall'altra quanto raccolto sul campo, da una parte le smentite dell'Egitto, dall'altra gli indizi degli investigatori. Il Ministero dell'Interno egiziano esclude che Giulio Regeni sia finito nelle mani delle forze di sicurezza, ma è in questa direzione che invece sembrano condurre le ultime tracce del ricercatore. La Procura di Roma sta esaminando il suo PC per ricostruire le ultime comunicazioni e capire anche quali percorsi possono aver fatto i suoi report sui sindacati. Qualcuno li ha fatti avere all'intelligence militare? Rumors del Cairo raccontano di un imminente giro di vite già in programma contro sindacati e attivisti e far passare un ricercatore straniero come punto di contatto tra i locali e 007 da altri paesi fornirebbe un ottimo pretesto. Regeni potrebbe essere parte di una storia più grande, nota Khaled Fahmy, professore dell'American University del Cairo, secondo cui non è frequente che un ricercatore venga pedinato, anche se dedito ai temi del sindacato, i più pericolosi. Qualcuno potrebbe dunque aver segnalato il suo nome e averlo trasformato nella pedina perfetta di un'operazione più grande. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Cambiamo completamente argomento, parliamo di mercati finanziari. Oggi le borse sono state positive anche grazie alle parole di Mario Draghi. I mercati aspettavano da giorni l'intervento dell'Eurotower e così, davanti al Parlamento europeo, Mario Draghi spiega cosa sta accadendo alle borse. La caduta dei titoli bancari riflette l'elevata sensibilità del settore a prospettive economiche più deboli del previsto, afferma il numero uno della BCE, ribadendo: non chiederemo alle banche di aumentare i capitali. La ricetta per uscire da una crisi adesso dovuta più che altro alle economie emergenti è meno tasse, più investimenti, sottolinea Draghi. Se la ripresa prosegue a passo moderato, infatti solo grazie alle misure di politica monetaria e ai prezzi dell'energia. Per questo siamo pronti ad agire a marzo, spiega la BCE, sostenendo la corsa pomeridiana dei listini. Milano, la migliore insieme a Madrid, guadagna oltre il 3%, trainata dalle banche. Una spinta all'Europa arriva anche da Tokyo, salita del 7%, mentre Wall Street è chiusa. Attenzione però al facile ottimismo. Per Piazza Affari, la perdita da inizio anno resta del 20%. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E arriviamo così alla politica italiana. Unioni civili, non si placano le tensioni nel Partito Democratico a poche ore dalla ripresa dei lavori in Senato. Domani ricomincia le votazioni. Oggi il PD si è nuovamente riunito per tentare una sintesi, una mediazione tra le richieste dei cosiddetti cattodem, cioè l'ala cattolica del Partito Democratico, e la maggioranza del gruppo. Il primo voto su cui domani l'Assemblea di Palazzo Madama sarà chiamata a esprimersi è l'emendamento del renziano Marcucci, cioè il cosiddetto super canguro, che se approvato farà praticamente decadere molti emendamenti presentati. Quindi in base all'esito di questo voto si capirà se l'iter procederà spedito o meno, con un numero ingente di votazioni e di scrutini segreti. E restiamo sulla politica. Sbarcano online i candidati del Movimento 5 Stelle per il Comune di Roma. Sul blog di Beppe Grillo sono apparsi i curricula e i video degli aspiranti sindaco e consiglieri per il Campidoglio ed è partita dunque la selezione. 209 i candidati, mentre da oggi cambia intanto il volto il Movimento, come promesso. Il nome di Beppe Grillo esce definitivamente dal logo del Movimento 5 Stelle. A deciderlo lo scorso novembre era stata la base con un referendum online. Dopo una serie di passaggi burocratici oggi è arrivato l'annuncio ufficiale, naturalmente sul blog del comico. Nel nuovo logo, molto simile al precedente, il nome di Grillo è sostituito dall'indirizzo web www.movimento5stelle.it. Il movimento è diventato adulto e si appresta a governare l'Italia, per questo credo che sia corretto non associarlo più ad un nome, aveva spiegato mesi fa il leader pentastellato annunciando il referendum. Il cambio di logo nasce quindi con l'obiettivo di rendere più indipendenti gli eletti pentastellati, ma proprio non convince gli avversari politici che da sempre li accusano di essere eterodiretti da Grillo e Casaleggio. Presentatevi alle elezioni direttamente con il logo della Casaleggio e associati, così per una volta sarete sinceri con gli italiani, è il consiglio ironico che arriva dal Democratico Carbone. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo di canone Rai. Sapete com'è stata la polemica? A lungo se ne è parlato di come dovesse essere pagato, tolto oppure introdotto dove. Insomma, sentite cosa succede. Sul canone Rai, in bolletta, siamo ancora in alto mare. L'allarme è di Assoelettrica, che nel giorno in cui scadevano i termini per il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico necessario per risolvere i tanti nodi ancora irrisolti, avverte che le imprese, dice il Ministero, non sanno come fare. Chicco Testa, presidente di Assoelettrica, a Focus Economia. Diciamo che sono un po' seccato personalmente, ma anche le nostre imprese, ovviamente, a nome delle quali parlo, di vedere spot televisivi della RAI che dicono quest'anno è tutto facile, eccetera, eccetera. Loro lo sanno, noi non lo sappiamo. Ecco, quindi il mio è un piccolo segnale d'allarme. Abbiamo mandato da tempo una lettera con tutti i problemi tecnici che noi abbiamo individuato. Bisogna sedersi intorno a un tavolo, perché credo che noi ne sappiamo un pochino più di loro su come funziona il sistema di bollettazione. Ritorniamo sulle notizie dall'estero con i rapporti Stati Uniti-Cuba. Sapete che ormai c'è il disgelo da diverso tempo. L'amministrazione del presidente americano Obama approva per la prima volta in 50 anni la costruzione della prima fabbrica americana a Cuba. Il via libero è stato concesso a due ex ingegneri di software per realizzare un impianto per la costruzione di fino a 1000 piccoli trattori l'anno. L'annuncio precede la firma dell'accordo fra i due paesi per consentire voli commerciali ed è attesa per martedì. Colonia, dei 59 migranti sospettati di aver preso parte alle aggressioni nei confronti delle donne nella notte di Capodanno, vi ricordate, a Colonia in Germania, solo tre sono arrivati in Germania con la recente ondata migratoria, lo riferisce la Welt intervistando il procuratore che ha illustrato, il procuratore di Colonia, che ha illustrato i dati sulle indagini in corso. Si tratta di due migranti, uno siriano e uno iracheno. Gli altri sospettati, 13 dei quali arrestati, provengono dal Nord Africa, dal Marocco, Algeria, Tunisia e sono in Germania da diversi anni. E c'è questo rapporto shock sugli stupri in Kenya da parte di Human Rights Watch, che ha pubblicato un rapporto che denuncia il fallimento delle autorità keniane nel proteggere le donne e le bambine di fronte agli abusi sessuali compiuti durante le violenze post-elettorali del 2007. Si parla di violenze sessuali di gruppo inenarrabili nei confronti di donne e bambine. Le sopravvissute a quelle violenze, aggiunge responsabile di Human Rights, sono state dimenticate, escluse. Per l'organizzazione non governativa che è a base a New York, il governo di Nairobi ha taciuto questi crimini, creando le condizioni adatte per una loro ripetizione. Di nuovo in Italia con la cronaca, continua la caccia agli evasi di San Valentino, fuggiti da Rebibbia, passata al setaccio la capitale, ma dei due rumeni evasi dal carcere romano nessuna traccia. Gli investigatori hanno fermato oggi alcune persone nel corso delle ricerche, ma i due non si trovano e di questo parleremo. E adesso a Salerno con una brutta storia avvenuta tra giovanissimi. Una lite per un ombrello è finita quasi in tragedia in una scuola di Salerno. Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato da un compagno che lo ha colpito al collo e all'addome con un piccolo coltello. Il litigio è avvenuto davanti ad altri studenti dell'Istituto Genovesi Da Vinci. Il ragazzo ferito è stato operato all'ospedale Ruggi, non risulta in pericolo di vita. L'arma, gettata dal balcone, è stata ritrovata dalla polizia. La squadra mobile sta ascoltando professori e studenti presenti al momento della lite. L'aggressore è stato fermato e, a quanto si apprende, sul suo profilo Facebook gli investigatori hanno trovato un commento che annuncia vendetta per l'accoltellamento. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora la cronaca, a proposito dello studente morto, vi ricordate giorni fa, la scorsa settimana, Cristian Lombardozzi, di 17 anni, deceduto venerdì scorso durante una lezione all'Istituto Alberghiero De Panfilis di Roccaraso, che era caduto indietro con una sedia. È stata esclusa dall'autopsia la morte per trauma e quindi potrebbe essersi trattato in realtà di un malore. In chiusura parliamo di due notizie che riguardano la salute e la scienza. Potrebbe rivoluzionare la diagnosi precoce di tumori il nuovo test non invasivo che da una singola goccia di saliva consente di avere un risultato nel giro di 10 minuti. A presentare i dettagli un ricercatore dell'Università della California di Los Angeles, un test assicura affidabile al 100% e poco costoso, meno di 20 euro. E poi questa storia del cervello di coniglio scongelato senza danni, il successo di questo esperimento fatto da degli scienziati, anche in questo caso californiani, apre al sogno dell'ibernazione. La ricerca è descritta sulla rivista Journal of Cryobiology e ce ne occuperemo più tardi con un esperto. La notizia è che sai questa storia che viene da Massa Carrara. Un gruppo di cittadini della città toscana manifesterà domenica prossima alle 10.30 davanti alla curia di Massa contro l'ex parroco di un paesino della Lunigiana. Il prete è accusato di aver avuto una doppia vita, di frequentare escort, fare uso di droghe, utilizzare soldi nelle offerte per viaggi e altri vizi. La storia di questo sacerdote era venuta già alla ribalta quasi un anno fa, quando un suo presunto amante, un giovane napoletano, rivelò i vizi del parroco mostrando foto e video dell'uomo in atteggiamenti compromettenti. La diocesi aveva aperto un'indagine interna. In seguito, per decisioni della stessa diocesi, il parroco fu allontanato dalla parrocchia, ma vive ancora in provincia di Massa Carrara e la questura di Massa Carrara ha dato l'autorizzazione quindi domenica ai manifestanti che vogliono far cacciare via da zone limitrofe questo ex parroco. Prima di aggiornare chi sta viaggiando, vorrei aggiornarvi anche sui vostri messaggi a proposito della pensione di reversibilità in pericolo, ma poi capiremo se effettivamente così. Vedo la vostra sensibilità, molti messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Note sia al 349-238-6666. Cristiano scrive: su certe fasce in linea di principio non avrei né riserve né difficoltà a limitarle perché ci sono difformità e scarti enormi fra le vite sociali, ma se si inizia a far scricchiolare, a confondere la previdenza con groviglie e storture normative, si entra in una matassa senza uscita. Michele scrive: se si toglie i ricchi, vedove o vedovi dei parlamentari o a chi ha un tenore di vita alto, per dare a chi è alle pezze, io sarei molto d'accordo. Cosimo da Pistoia dice: reversibilità, ogni pretesto è buono, ormai il governo mette mani dappertutto, tra un po' la legge tassativa sul testamento obbligatorio a favore dello Stato o della Chiesa. Rimanete, giusto aggiorniamo chi viaggia e ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Quello di Effetto Notte vi ha fatto effetto, questa notizia per ora ancora da verificare sul possibile cambiamento della pensione di reversibilità, che potrebbe diventare una erogazione assistenziale e non previdenziale, quindi la si prenderebbe solo in base al proprio, alla propria situazione economica, in cui rientrano anche le case, eccetera, eccetera. Poi ne parleremo. E vedo anche Giorgio dice: mi sembra che questa cagnara sia il solito corollario delle beghe a monte, tutto si può sacrificare sempre, pare. Alberto dice: non c'entra, ma volevo informarla che Radio Capodistria ha comunicato che l'Austria non accoglie più profughi e ha chiuso i confini, così tutti gli altri saranno in Slovenia dal 19 e le saprò dire in presa diretta le misure draconiane. Va bene, se vuoi aggiornarci, Alberto. L'Austria aveva annunciato giorni fa che raggiunto un certo limite di profughi avrebbe chiuso le frontiere. Non ho visto adesso notizie ufficiali. Comunque continuiamo su con i vostri messaggi, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666, con le vostre osservazioni su questo possibile proposta decreto legge sulla pensione di reversibilità. Adesso però tra poco entriamo nel cuore di altri argomenti. Vi ricordo intanto le notizie più importanti del giorno. Siria, bombe su 5 ospedali e 2 scuole, almeno 50 i morti, colpita una struttura di Medici Senza Frontiere, intanto scambio di accuse tra Ankara e Mosca, tra poco ne parliamo. Draghi dice la ripresa è debole, la Banca Centrale Europea è pronta ad agire a marzo, le borse intanto rimbalzano, Piazza Affari ha chiuso con più 3,19%. E poi il canone RAI in bolletta, l'allarme delle imprese. E c'è anche la preoccupazione sulla pensione di reversibilità, per il governo è una polemica infondata. Il PD fa muro sulle unioni civili, avanti con il canguro, questo maxi emendamento, intanto la svolta dei 5 Stelle che Beppe Grillo fanno uscire dal simbolo. Il Papa in Chiapas chiede perdono agli indios a proposito delle terre depredate, dice il mondo ha bisogno di voi. E poi il Cairo che respinge le accuse sull'omicidio Regeni, dice non fu preso dai servizi, l'ambasciatore egiziano ai media dice che le speculazioni compromettono la soluzione. E questa vicenda degli evasi da Rebibbia caccia all'uomo, sono due uomini, due romeni in tutta Roma, decine di perquisizioni e posti di blocco in città. Adesso ci occupiamo della tormentatissima Siria, delle migliaia di morti che sono stati finora in questa guerra civile. Notizia di oggi è che nel nord del paese sono stati lanciati missili su almeno 5 ospedali e 2 scuole, che hanno provocato almeno una cinquantina di morti tra i civili. Così annunciano le Nazioni Unite. Medici Senza Frontiere conferma la distruzione totale di una loro struttura a Idlib. E c'è subito il rimpallo delle responsabilità, perché la Turchia dice è colpa dei russi. Mosca dice è soltanto propaganda, noi non c'entriamo niente. Damasco, quindi la Siria, rivela in realtà no, sono stati dei jet americani. Nel frattempo l'inviato speciale dell'ONU per la Siria, Staffan de Mistura, è arrivato oggi a Damasco a sorpresa. Non ci sono ancora notizie su cosa stia dicendo, facendo, in che direzione si stia muovendo. In ogni caso ne parliamo con Alberto Negri, inviato speciale del Sole 24 Ore. Caro Alberto! Buonasera a tutti voi. Alberto, quindi in Siria si continua a fare la guerra. Quando qualche tempo fa era entrato su questo già tormentatissimo scenario la Russia, quasi si era applaudito, nel senso si diceva nell'immobilità generale della comunità internazionale, almeno la Russia interviene, fa qualcosa, comincia a bombardare degli obiettivi precisi. Poi invece è parso che la Russia fosse più interessata a sostenere Assad e quindi a bombardare più gli oppositori di Assad e stessi siriani che non a colpire obiettivi dell'ISIS. Oggi poi è successo questo, e appunto come dicevo, c'è questo rimpallo di responsabilità. Qual è la situazione adesso? Ma mi domando perché gli americani e i loro alleati hanno fatto la guerra al califfato in questi ultimi 2 anni? Mi sembra di no. Domanda retorica, dici tu. Mi sembra di no. Oltretutto, la Russia è entrata in Siria il 30 di settembre 2015. A quel punto c'erano già 300 o 400 mila morti in quel paese. E soprattutto, che cos'era accaduto? È vero che la Russia ha salvato il potere di Assad, ma è anche vero che dopo 5 anni, né gli Stati Uniti, né la Turchia, né l'Arabia Saudita, né i jihadisti, né i gruppi di opposizione erano riusciti a buttare giù il presidente siriano. Cioè, in pratica avevano fatto un calcolo sbagliato quando 5 anni fa hanno cercato in qualche modo di buttarlo giù. Quindi si doveva avere, come dire, in un certo senso un po' di presa sulla realtà e capire che forse era più opportuno cercare una mediazione politica che continuare a ripetere Assad se ne deve andare, perché sempre questo ritornello abbiamo sentito in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, e con quali risultati? Che la guerra è peggiorata e che il popolo siriano è rimasto stritolato nella morsa delle contrastanti ambizioni dei protagonisti. Già. Come se ne esce, Alberto Negri? Come si esce dal caos? Prima di tutto gli Stati Uniti devono dire se si vogliono impegnare o no per uscire da questo caos. Ne sono in gran parte responsabili, con l'invasione dell'Iraq nel 2003, col fatto di aver fomentato anche loro la guerra in Siria per buttare giù Assad. Ma sono in un anno elettorale e non mi sembra che né Obama né Kerry abbiano molta voglia davvero di impegnarsi in questo quadrante. Poi, se si vuole arrivare a qualche soluzione, bisogna cercare che si arrivi davvero a un cessate il fuoco. La Turchia accusa la Russia, la Russia accusa la Turchia, i turchi dicono di voler combattere per il popolo siriano, ma in realtà bombardano i curdi siriani che stanno dall'altra parte. Il califfato sembra quasi del tutto sparito da questo quadrante. Insomma, è evidente che stanno, come dire, tutti avviluppandosi nelle loro contraddizioni, e più di tutti forse gli Stati Uniti e l'Occidente, che hanno sbagliato i loro calcoli. Grazie Alberto Negri. Quindi sempre più nel caos la Siria, purtroppo ci rimettono soprattutto i civili. Grazie Alberto. Poi invece ci spostiamo su cose più prettamente italiche, anche che insomma stanno facendo preoccupare non poco, sta facendo discutere molto questo possibile decreto legge del governo che ha, fra le altre misure, la possibilità di rivedere le pensioni di reversibilità. La nuova legge legherebbe, uso il condizionale, i trattamenti per chi perde il coniuge all'indice ISE, cioè all'indice che determina, che dice insomma qual è la propria situazione economica e che include tra l'altro anche il possesso di case. Allora insorgono i sindacati e anche la Lega, la sinistra del PD, Area Popolare, dice, così verranno tagliate queste pensioni di reversibilità. Il timore insomma è che le pensioni di reversibilità verrebbero inquadrate come prestazioni assistenziali e quindi non previdenziali e pertanto ancorate appunto all'ISE. Potrebbe questo limitarne fortemente il numero in futuro, permettendo l'erogazione solo a chi abbia veramente un reddito molto basso. I sindacati CGL e CISL e UIL in una nota congiunta dicono: sulle pensioni di reversibilità il governo tira il sasso e poi nasconde la mano. Il ministro del lavoro Poletti dice: una polemica infondata, non cambia nulla. Devo dire che dai vostri messaggi insomma c'è un bisogno di chiarezza. Tra pochissimo ne parliamo con il vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Chicco Padula. Intanto leggo altri messaggi, per esempio Alberto che scrive: per dare diritti a LGBT, cioè lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, alla reversibilità, siccome i conti non tornano hanno ben pensato di togliergli agli altri, che razza di paese. Roberto dice: sul tema pensioni restano ancora, nonostante molte riforme fatte, privilegi e pensioni d'oro in numero ancora troppo alto. Luca: questo governo, questa classe politica, cosa non ci toglierebbero pur di mantenere i loro privilegi? Chicco Padula, aiutaci tu. Chicco. E insomma, è una, come al solito ci troviamo di fronte a una questione non semplicissima, perché effettivamente il governo ha presentato uno schema di provvedimento, quindi deve uno schema di disegno di legge, quindi deve ancora andare in Parlamento, deve essere approvato, poi una quindi delega, una bozza, quindi insomma una bozza, cosa ancora in divenire. Le solite cose un po' come le vediamo fare ultimamente, e all'interno di questo provvedimento c'è scritto esattamente quello che dicevi tu, cioè nel tentativo di, diciamo, razionalizzare le prestazioni di tipo assistenziali che lo Stato garantisce ai cittadini, si prevede che anche quelle forme di sostegno, come per esempio sono le pensioni sociali, le pensioni di reversibilità, le pensioni ai superstiti, allora il riferimento per stabilire se uno ha diritto o meno a questa prestazione e per stabilire in che misura ha diritto a questa prestazione non sarebbero più legate solamente al reddito, quindi io, diciamo, ho un reddito mio personale di 20.000 euro all'anno e sulla base di quello si stabilisce quale quota di pensione di reversibilità posso o devo avere, ma verrebbero considerate anche le altre, diciamo, attività patrimoniali, per esempio la casa, i risparmi, le azioni, i bot, diciamo, verrebbe fotografata un modo, forse giustamente in modo un po' più attendibile, la situazione economica in cui una persona si trova. Naturalmente questo crea molti mal di pancia, perché questo significherebbe rivedere un pochino i criteri sulla cui base vengono assegnate queste prestazioni. E certo, anche perché, scusa Chico Padula, scusa, ti interrompo, dico, se una persona ha versato tot contributi, perché poi la persona che rimane, il coniuge, la coniuge, eccetera, adesso vedremo anche con l'Unione Civile cosa succede, deve avere meno o poco o addirittura non so se niente in base alla propria condizione economica. Ma guarda, no? Questo è un discorso ancora più complicato. Dico solamente una cosa, che ad esempio nei fondi pensione, quando un lavoratore opta per la reversibilità, la paga, cioè vuol dire che fa una scommessa, diciamo, a favore del proprio coniuge, ma si, diciamo, garantisce nell'immediato un assegno più basso, perché la reversibilità è un costo, cioè nel calcolo della pensione statale pubblica che viene fatta per ognuno di noi non si tiene conto della variabile reversibilità, per questo quel tipo di prestazione diventa a tutti gli effetti una prestazione previdenziale. In fondo, diciamo, noi sappiamo che è un po' una scommessa, no? Insomma, io faccio dei versamenti, se ho la fortuna di vivere a lungo percepisco tanto, se ho la sfortuna di, diciamo, passare a miglior vita prima, ovviamente percepisco meno, però questo, diciamo, è un po' la logica su cui si regge il sistema previdenziale, e nel calcolo della pensione pubblica l'incidenza eventuale della reversibilità non è conteggiato, no? Quindi noi abbiamo per convenzione stabilito che il coniuge superstite oppure il figlio nel caso non muoia il genitore, eccetera, ha diritto a mantenere un certo assegno di reversibilità. Quello che si vuole fare in realtà non è toglierlo, ma è, diciamo, commisurare il peso di questo assegno alla situazione economica effettiva di chi lo deve percepire. Questo vuol dire che se uno ha i mezzi propri per sostenersi, probabilmente avrà diritto a percepire un assegno minore. Scusa, però, Chico, e quei soldi in avanzo? Quei soldi in avanzo che uno ha? Non ci sono soldi. In effetti non ci sono soldi in avanzo, come ho cercato di spiegare, ma mi rendo conto che è un po' complicato. Però dimmi una cosa, Chico, sì. Poi dopo ci direi che siamo tutti tranquilli e ovviamente siamo tutti più contenti. Qualcuno già sta cominciando a trovare i capri espiatori, no? A dire adesso passa il disegno sulle unioni civili, il disegno di legge, e quindi anche loro, gli omosessuali, gay, lesbiche, avranno diritto, a parte che mi sembra una cosa sacrosanta, perché gli stessi, cioè, sono persone, due occhi, due braccia, che hanno pagato i contributi, possono anche loro. Sarebbero soggetti, stesso criterio, la stessa regola. No, quindi, diritti non e doveri uguali. Non penso sia neanche giusto confondere i due piani. Penso sia legittimo che il governo cerchi di individuare situazioni più eque. Ecco, io la metterei molto sull'equità, cioè probabilmente io mi sono documentato, sai, ci sono 3.800.000 pensioni di questo tipo in pagamento adesso, quindi insomma capisco che parliamo di una cosa e valgono 24 miliardi complessivamente, però dico, se anche qualche decina di queste pensioni va a finire a gente che non ne ha bisogno perché ha altri mezzi di sostentamento, io onestamente non lo trovo così scandaloso. Troverei scandaloso che si togliessero queste pensioni a chi ne ha effettivamente bisogno. Scusa, Chicco, quindi vediamo se abbiamo capito. Sì. Mettiamo che tu, non lo so, tra 100 anni passi a miglior vita, no? Sì. Mettiamo, tra 150, sì, anche se vuoi. Rimane tua moglie, a volte può, sì, essere al contrario, eccetera. Sì. Se tua moglie ha diritto a una certa pensione in base ai contributi che hai versato tu, tu saresti comunque favorevole, diciamo, al fatto che se diciamo ha varie case, si può mantenere bene, eccetera, la si può decurtare questa pensione di reversibilità? Ma scusa, ti faccio io una domanda. Sì. Tu pensa, diciamo, invece a un lavoratore fortunato che vive fino a 110 anni, sì, e che ha smesso di lavorare a 60 e quindi per 50 anni percepisce la pensione. Invece pensa e non ha, diciamo, nessun tipo di reversibilità, eccetera. Invece pensa al lavoratore più sfortunato che smette di lavorare a 60 e a 61 passa a miglior vita e ha preso la pensione per un anno e anche lui non ha nessun diciamo, non c'è nessuno dopo di lui che possa avere la reversibilità. Il sistema previdenziale si regge anche, diciamo, su questo, dico una parola brutta, su questo calcolo statistico, cioè il fatto che qualcuno prematuramente, esatto, qualcuno invece e qualcuno più longevo dopo. Però non è che, diciamo, nel calcolo della pensione che noi abbiamo dato a quello che ha 110 anni o a quello che ne ha 60 o 61 abbiamo tenuto conto della variabile reversibilità, cioè il fatto che lui possa avere una moglie o un figlio, eccetera, al quale darglielo. E quella diventa una prestazione assistenziale, cioè in passato si è detto, e pensiamo anche peraltro quando, diciamo, era molto più frequente il caso che la moglie non lavorasse, restasse a casa, il marito era l'unica, quella era l'unica fonte di reddito, veniva a mancare lui e quindi, diciamo, la famiglia perdeva ogni sostentamento. Allora lo Stato diceva: va bene, io, insomma, qui faccio un intervento di tipo assistenziale e siccome, diciamo, quella persona che lavorava avrebbe consentito alla moglie di garantirsi un tenore di vita, di garantirsi un sostentamento, oggi non c'è più, intervengo io e sotto forma di assistenza gli garantisco di proseguire, mantenere quel tenore di vita. Capito. Cosa che ancora, che non è che si vuole togliere, assolutamente, però si dice: se quella persona, diciamo, ha già di per sé, per lei, ha i suoi mezzi di sostentamento, perché magari è ricca, perché magari ha un patrimonio, perché magari ha risparmi, eccetera, allora lo Stato, diciamo, in questo momento ci vuole ripensare. Dico un'ultima cosa. Sì, che siamo a 20 secondi, sì. Velocissimo. Già adesso non è che tutta la pensione viene, certo, diciamo, passa tutta al coniuge, sì, perché, diciamo, solo una parte. Solamente una parte, se il reddito del coniuge superstite supera certi livelli, sì, cioè se supera 5 volte, mi sembra, la pensione, la pensione minima, si ha diritto solo al 50% di reversibilità. Chiaro, Chicco Padula. Per il momento, insomma, secondo me il dibattito andrà ancora avanti perché ho visto reazioni politiche di tutti i tipi, però staremo a vedere effettivamente che cosa succede. Grazie intanto, Chicco Salvatore Padula. Ho mentito tutto oggi, dice che non ci sarà nessun, sì, intervento sulle reversibilità. Così ha detto Poletti, staremo a vedere. Ciao. Grazie intanto. Grazie a voi. Buon lavoro. E direi che siamo proprio di corsa, ancora vostri molti messaggi, però ci sentiamo tra poco. Donne, tirate fuori le vostre Barbie dalle soffitte, dalle cantine, dai cassettoni e dagli sgabuzzini. Fatevi una foto assieme alla Barbie della vostra vita e mandatela a melog@radio24.it. Saranno selezionate solo 150 donne che, assieme alle loro bambole, saranno le fortunatissime protagoniste della Notte delle Barbie Viventi. Avverrà la notte del 17 febbraio al Mudec di Milano. Ci sarò io, ci sarete voi, ci sarà Barbie. Chi verrà non lo dimenticherà mai più. Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24 da Stefania Cattaneo. Per domani prevediamo un inizio di giornata variabile al nord con residui fenomeni su Romagna, Valpadana, Basso Piemonte e Ponente Ligure, nonché nevicate sulla dorsale emiliano-romagnola dai 900-1200 metri. Avvio instabile anche su gran parte del centro, ma con tendenza a un miglioramento entro sera. Ampie schiarite, clima mite al sud e in Sicilia. Italia divisa in due anche sul fronte delle temperature. temperature. Il nord Italia sarà nel mezzo di aria più fresca, mentre scendendo verso sud le temperature raggiungeranno valori molto miti. Proprio al sud i venti caldi di scirocco, che soffieranno con un'intensità sostenuta, porteranno i valori oltre alle medie del periodo, con punte anche superiori ai 20 gradi sulla Sicilia, la Calabria e la Puglia. Sulle regioni settentrionali le massime oscilleranno invece tra 7 e 11 gradi. Per ora è tutto, restate con noi su trebimeteo.com. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto nel momento giusto, con la giusta conduttrice, naturalmente Roberta Giordano con voi. Ho visto molta sensibilità su questa cosa della pensione di reversibilità e di quelle possibili modifiche che potrebbe apportare il governo con un decreto legge. Paolo da Feltre, al 349-238-6666, dice: possibile che puntino sempre sulle pensioni anziché su enormi sprechi e ingiuste agevolazioni dei politici nazionali e regionali. Sebastiano scrive: iniziamo col dire che la pensione di reversibilità è lecita solo se maturata su base contributiva e non retributiva. Alberto scrive sulla pagina Facebook: visto che consideriamo l'ISE per erogare le pensioni di reversibilità, io ho un ISE bassissimo perché ho chiuso l'azienda in deficit e sono disoccupato. A questo punto voglio essere pagato mensilmente, mi spetta di diritto. Vi ricordo adesso quali sono le notizie più importanti e poi entriamo in un altro argomento. La guerra in Siria, l'ONU annuncia che sono 5 ospedali bombardati e 2 le scuole, i civili che sono morti sono almeno una cinquantina, la Turchia accusa la Russia, Mosca replica, è solo propaganda. Il Papa in Messico, Francesco, chiede perdono agli indios messicani, la messa nel cuore del Chiapas. Draghi all'Europarlamento, il presidente della BCE rassicura nuovi interventi a marzo, ma per la crescita dice serve l'intervento degli stati. L'omicidio di Giulio Regeni, il Cairo respinge le accuse, insiste, il ricercatore non fu preso dai servizi e l'ambasciatore egiziano ai media dice le speculazioni compromettono. Mettono la soluzione. Unioni civili non si placano le tensioni nel PD a poche ore dalla ripresa dei lavori in Senato. Movimento 5 Stelle, il nome di Grillo da oggi fuori dal simbolo modificato il logo del movimento, lanciata la carica dei 200 candidati per il Campidoglio. Carceri, 2 romeni fuggono da Rebibbia, in corso le ricerche in tutta Italia, ne parleremo tra pochissimo. Scienza, cervello di un coniglio scongelato senza danni, il successo dell'esperimento apre al sogno dell'ibernazione. Quindi parliamo adesso di 2 uomini, 2 romeni evasi nel giorno di San Valentino dal carcere romano di Rebibbia. In un primo momento il sindacato della polizia penitenziaria FNSI CISL Lazio aveva comunicato che erano stati presi a Tivoli, poi invece è arrivata la smentita e non sono stati ancora trovati. Secondo una prima ricostruzione, i 2 rumeni, Catalin Ciobanu e Mihail Florin Diaconescu, di 33 anni e di 28 anni, hanno praticamente superato 3 sbarramenti prima di darsi alla fuga. Il tutto avvenuto nei modi che pensavamo ormai solo legati ai film, alla commedia all'italiana, ma anche all'americana, come quindi segando le sbarre e scendendo, legando i lenzuoli uno all'altro. Ecco, in questo modo sono scappati. Le ricerche di 2 fuggiaschi ritenuti pericolosi sono a questo punto scattate in tutta Italia. Entrambi sono stati condannati rispettivamente, uno per omicidio e sequestro di persona, l'altro per rapina. Ne parliamo col dottor Santi Consolo, capo del DAP, che è il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. Dottor Consolo, buonasera, grazie della sua disponibilità. Buonasera a voi. Naturalmente, di fronte a un fatto come questo ci si chiede come sia possibile fuggire così da un carcere italiano. Ma lei crede che evasioni non ne sono mai accadute negli istituti penitenziari? Ma leggevo che mi pare che ce ne siano stati almeno 17 casi in 3 anni, 21 detenuti sono scappati in 3 anni, negli ultimi 3 anni. Lei vuole i dati delle altre nazioni in ordine alla percentuale di evasione rispetto a... Sì, potrebbe essere un dato interessante. Allora le dico che nel 2012, per esempio, in Francia ne sono evasi 89. Quante carceri hanno? Su una popolazione di 66.704 detenuti. Noi in Italia, su un solo episodio che avviene, creiamo parecchio allarme. Ora, il dato che non viene detto è che nel 2013 le evasioni sono state 10, nel 2012 15, lo scorso anno 7. Comunque mal comune, mezzo gaudio. È evidente che questo evento crea preoccupazione e noi dobbiamo avere la massima attenzione per trovare i correttivi a quanto accaduto. ma creare eccesso di allarme e destare paura nella collettività con senso di insicurezza lo trovo profondamente sbagliato. Però, dottor Consolo, il SAP, il sindacato delle guardie penitenziarie, ha denunciato c'erano solo due agenti di guardia a Rebibbia. E questo, nel settore G11, dove sono scappati? Ho chiesto l'ordine di servizio, si sviluppa su tre piani, piano terra e due piani in elevazione. All'interno erano presenti 9 agenti, ma non è questo il problema, perché la dinamica dell'evasione è tale che, a prescindere dal numero degli agenti all'interno, quello che è venuto meno è stata la vigilanza all'esterno, e forse il dato carente è stato il mancato funzionamento dei sistemi anti-scavalcamento e motion. E come è stato possibile questo, dottor Consolo? E questo è in via di verifica e di accertamento. C'è un'indagine anche dell'autorità giudiziaria e noi stiamo collaborando come nucleo investigativo centrale della Polizia Penitenziaria per fornire tutti gli elementi di conoscenza per accertare come è potuto accadere. Certo. Cioè, quello che invece è importante, in questo sono d'accordo con i sindacati quando fanno delle legittime richieste, quello che è importante è che oggi, per garantire sicurezza all'interno degli istituti ma anche all'esterno per la collettività, è necessario che vi siano maggiori risorse anche di energie lavorative all'interno degli istituti penitenziari e che ci siano più mezzi per l'automazione, la videosorveglianza e i sistemi di sicurezza, di vigilanza esterna, che non soltanto devono essere installate a regola d'arte, ma devono essere anche manutenuti, quindi ci vuole una manutenzione accurata e costante. E tutto questo ha dei costi e quindi dobbiamo trovare anche le risorse per poter fare fronte a queste problematiche. Ci sembra il minimo, dottor Consolo. Io intanto la ringrazio e le auguro buon lavoro, allora. Sì, grazie a lei e buon lavoro a lei. Grazie. Ancora i vostri messaggi brevemente, poi aggiorniamo chi sta viaggiando. C'è per esempio Roberto che dice, sempre a proposito delle pensioni di reversibilità e possibili modifiche, alla faccia della sinistra che proteggeva le fasce deboli della popolazione, lavoratori, pensionati, donne e malati minori. Complimenti a Renzi che distrugge l'ultimo pezzo di Stato sociale che ancora resiste in questo disgustoso paese, le pensioni, dice Roberto, tra poco. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E rieccole in pochi secondi, notizie più importanti. Se avete acceso radio in questo momento, anziché puntualmente alle 21 sulla Siria, bombe su 5 ospedali e 2 scuole, almeno 50 i morti, colpita una struttura di Medici Senza Frontiere, intanto scambio di accuse tra Ankara e Mosca. Draghi dice che la ripresa è debole, il presidente della Banca Centrale è pronto, europea, ad agire a marzo, dice intanto le borse rimbalzano, Piazza Affari chiude a più 3,19%, canone RAI in bolletta, l'allarme delle imprese che ancora dicono non siamo pronte a questo, e poi la pensione reversibilità che sta facendo molto discutere, ma per il governo è una polemica infondata, e il PD fa muro invece sull'Unione Civili, avanti con il maxi emendamento il canguro. E adesso lo spazio europeo, l'appuntamento con News On, la rubrica che propone un dialogo tra elettori e rappresentanti nella Unione Europea. Sul sito di Radio 24 poi ci sono tutti i contatti elettronici per scrivere e conoscere meglio il lavoro degli europarlamentari. News On. Incontro con gli europarlamentari. Nome: Paolo. Cognome: De Castro. Età: 58. Nato a San Pietro Vernotico Brindisi. Eletto in Nord-Est. Con quanti voti? 87.000 voti quasi. Partito politico: Partito Democratico, da sempre. Gruppo politico: Gruppo dei Socialisti e Democratici Europei. Segni particolari: Nessuno. Quante lingue parla? Inglese e un po' di francese. Competenze europee in 10 parole. Agricoltura, agroalimentare, qualità dei prodotti agricoli, cibo, il grande tema del commercio internazionale. Benvenuto nella Uzone di Radio 24 da Silvia Bernardi. Ricollocamenti dei migranti. Avramopoulos chiede di cambiare passo. In che direzione? in una direzione più europea, collettiva. Ci dobbiamo assumere tutti le responsabilità e non far smettere di sognare un'Europa. Schengen non deve essere la fine dell'Europa. OGM sì o no? Sì, quelli di nuova generazione, gli OGM sostenibili. Gran Bretagna, dentro o fuori l'Unione? Sì, ma a patto che le regole siano uguali per tutti. Nessuno sconto particolare, solo perché ogni tanti anni se ne vogliono uscire. Ricordiamo che c'è la Brexit e non deve essere una scusa per ottenere di più. L'aggiornamento dei limiti per le emissioni dei veicoli ha ottenuto il via libera. Vittoria dei costruttori contro l'ambiente? Noi progressisti abbiamo votato contro, però certamente bisognava trovare un punto di mediazione. Qual è il punto di mediazione? Un punto di mediazione che dia un po' più di tempo, ma che si abbassino i limiti per rispettare l'ambiente. Solo un po' più di tempo alle case costruttrici per adeguarsi. A che punto è il trattato di liberalizzazione UE-USA, il TTIP? Attendiamo i risultati del 12° round negoziale a metà di febbraio. Dopo questo? Ci saranno i dibattiti, ovviamente, per quanto riguarda gli Stati Uniti. Siamo in piene campagne delle primarie. Ci auguriamo che gli Stati Uniti non lascino questo tema e che si impegnino insieme a noi a trovare una conclusione positiva. I contrari sono preoccupati per gli standard qualitativi europei. È una preoccupazione reale? Non dobbiamo assolutamente cambiare le regole europee. I trattati non cambiano automaticamente i regolamenti comunitari né le leggi federali americane. Quindi TTIP sì o no? TTIP sì, a patto che dia un risultato positivo per entrambi le parti. Se sarà un risultato non positivo, il Parlamento europeo voterà contro. L'aumento delle importazioni di olio dalla Tunisia a dazio zero comprometterà i produttori europei? Il tema è che non danno nessun aiuto ai produttori tunisini e invece creano difficoltà ai produttori europei. Quindi possiamo trovare altre forme di sostegno, perché la Tunisia va aiutata. Se non avesse fatto il politico? Tornerei a fare quello che ho fatto sempre, il professore universitario. L'ultimo libro letto? Quello di Kissinger, Ordine Mondiale. Il suo motto? Avanti. Le manca fare politica in Italia? No, anzi, è molto più divertente fare politica in Europa. C'è meno scontro ideologico e si costruisce di più. Purtroppo abbiamo tanti populismi da combattere. Un voto all'Europa da 1 a 10. Beh, oggi non possiamo dare 6, ecco, sarei su 5. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Occupiamoci ora dello scongelamento del cervello di un coniglio. Voi direte un argomento un po' splatter, un po' pulp, un po' cruento, insomma. In realtà è un esperimento scientifico di notevole portata che è stata fatta da ricercatori californiani, descritta alla rivista Journal of Cryobiology. È stato scongelato per la prima volta questo cervello senza danni alle cellule cerebrali, e questo può dare adito a molte speranze anche per quanto riguarda la possibilità di ibernare in futuro il cervello umano. Chiedo conferma al professor Piero Barbanti, che prima un neurologo dell'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Professore, buonasera. Buonasera, confermo tutto, confermo anche il suo palpo, vista l'uscita del film di Quentin Tarantino di questi tempi. Ma la novità è una novità, ma la novità è molto tecnica. Quindi la novità è che si è trovata la maniera per scongelare il cervello. E questo a che cosa può servire? Forse un ascoltatore penserebbe immediatamente al trapianto, un organo che si può custodire. No, la situazione non è così. Serve a studiarlo. Cosa hanno fatto questi ricercatori? Sono riusciti sostanzialmente a ridurre la quantità di acqua che, cristallizzando, aumenta di volume, spacca le cellule con la glutaraldeide. Questo è un qualcosa che aiuterà a conoscere il cervello, ma che se ne dica e si scriva da qualche parte. Il cervello è un organo intrapiantabile. Pensate alla paralisi cosiddetta da freddo del facciale, un nervetto che non è stato lesionato se non forse colpito da un anticorpo, da un virus, che se ne sta offeso per 6 mesi paralizzando la faccia. Quando mai cuciranno i nervi? Ma allora a che cosa potrebbe essere utile? Ma tecnicamente a rappresentare un serbatoio di cellule neuronali per il futuro. Ma è questa una novità? Io non voglio sembrare oscurantista, la risposta è no. Con le cellule fetali, con le colture neuronali, con le cellule staminali, noi possiamo differenziare, creare, in qualche maniera orientare i neuroni. Vorrei concludere con una battuta. Sì. Noi siamo molto affascinati da queste cose che vengono dal mondo della ricerca di base. Ricordiamoci però che i ratti, i topi e i conigli non muoiono più, continua a morire l'uomo. Attenzione alla trasferibilità del dato dall'animale alla nostra irraggiungibile specie. Sono d'accordo, professor Barbante, pur non essendo una scienziata, anzi tutt'altro, però effettivamente troppo spesso ci si entusiasma delle ricerche su topi, su conigli, su altri animali, e non si capisce che effettivamente, come lei ha detto, insomma, noi siamo esseri umani un po' diversi. Ma torneremo su questi argomenti. Grazie, professor Piero Barbante. Grazie molte. A voi, buonasera. Grazie, buona continuazione. Noi ci risentiamo alle 22.